Ciao a tutte le compagne e i compagni che seguono Radio Asilo. La trasmissione oggi, sempre registrata per motivi tecnici non legati allo spazio né legati ad altre problematiche, è dedicata alla questione di Cuba. Infatti, il titolo è Giù le mani da Cuba. Però prima di parlare, di entrare nell'ambito del titolo della trasmissione a cui è dedicata Cuba e ciò che sta succedendo, è chiaro che non possiamo non parlare a 20 anni di distanza dei fatti di Genova e quindi diciamo, il nostro pensiero va principalmente non solo a Carlo, ma alla famiglia, ad Aida, al padre, a Elena, alla sorella, che diciamo, rivedere lo strazio a cui è stato sottoposto Carlo, non possiamo immaginare come un genitore possa vivere e rivivere costantemente queste, quelle drammatiche vicende che hanno levato un proprio familiare, un figlio, e a cui ad Heidi e alla famiglia va tutta la nostra umana solidarietà e il grande affetto. Ed è chiaro che parlare di Cuba, dell'America Latina, su cui noi come radio stiamo dando molto spazio da un bel po' di tempo, che diventa fondamentale, è chiaro che non possiamo, cioè proprio il significato di quelle giornate antiimperialiste, contro la globalizzazione, contro la condanna ai sud del mondo. È chiaro che per i compagni che erano presenti là, le immagini di Piazza de Nova, De Nove, cioè quella dedicata al network anticapitalista, quindi all'area, al movimento antagonista nazionale, non parlare di Genova significa parlare dei contadini, dei sindacati, dei contadini della CUT brasiliana, delle madri di Plaza de Mayo, di Bové con la sua mucca poverina, che cosa è stata costretta a subire, di tutte del popolo curdo, palestinese, degli indiani, dell'Amazzonia, della questione della sanità internazionale e diciamo del diritto alla salute, del diritto all'ambiente, del diritto a vivere in un mondo giusto, in cui il rapporto umano-ambiente, umano-natura, diciamo, non può essere sopraffatto dal profitto che diciamo, si basa sulla distruzione e lo sfruttamento irrazionale del pianeta. Ed ecco che è chiaro che quello che sta succedendo, che è successo da Genova in poi in questi 2 decenni, noi l'avevamo già detto. È chiaro che è una magra consolazione a dire avevamo ragione, però è chiaro che diciamo, in non aver negli anni successivi consolidato ciò che si era determinato in quei giorni ha fatto sì che oggi si assiste passivamente, a volte impotenti, più che passivamente impotenti, a ciò che sta succedendo per ciò che riguarda la natura, l'ambiente, la salute, e la pandemia ha fatto uscire fuori tutto ciò, la schifezza del capitalismo che noi denunciamo. E a proposito della schifezza del capitalismo, pure le vicende che stanno succedendo a Cuba, ma non solo a Cuba, in Colombia, in tutti gli stati latinos, che diciamo la globalizzazione che nel Ciotto di Genova venne, come devo dire, consacrata e consolidata nelle sue articolazioni, ci fa inorridire per come, ma anche questo è chiaro che di fronte ai potenti della Terra i milioni e i miliardi di umanità, i potenti della Terra c'hanno tutto, c'hanno le armi, gli eserciti per imporre proprio il dominio capitalistico. Noi abbiamo, tranne forme di popoli in armi, l'intero pianeta alle sue idee, l'umanità che, mani nude cerca di proporre un mondo possibile, migliore possibile. Ed è chiaro che sarebbe quel che possiamo dire che sui fatti di Genova una cosa buona che sta succedendo, i fatti di Genova fino alla Diaz, per non dimenticare ciò che è successo a Napoli sempre nel marzo 2001, che era l'anticipo di quel che poi si sarebbe verificato. E noi stiamo vedendo pure molte ipocrisie, ribadiamo, non è una questione di polemica, è una questione di carattere, di memoria storica, una questione di rilettura corretta e onesta degli avvenimenti. E molti, perché quell'imbalcatura repressiva determinatasi a Napoli era concezione d'Alemiana con il suo ministro degli interni Bianco. Ricordiamo che le violenze che subirono i compagni e le compagne arrestate a Napoli nelle caserme napoletane poi sono state sono state riprese con ancora più violenza, ma perché era la quantità di questa umanità, parlavamo di 500.000 persone, la quantità di persone arrestate, per poi arrivare quindi alle umiliazioni, le violenze, le torture che poi si sono consolidate e manifestate nella macelleria messicana Diaz. Ed è normale che l'imbarcatura repressiva, Berlusconi, il governo di Berlusconi, Scajola, Centaglia Vari e Fini ereditarono. La differenza tra le due eccezioni è stata proprio la gestione squadristica fascista che poi si è scatenata vigliaccamente alla Diaz. Ed è normale che vedere che magari anche nelle varie celebrazioni, ribadiamo, essendo una cosa importante per dire anche alla vicenda delle torture nelle carceri italiane, in cui il termine macelleria messicana o dello Diaz, dette anche da persone che in quegli anni, nei nostri confronti, noi eravamo i facinorosi e la polizia faceva il suo dovere. Un bel po' di questi personaggi ora partecipano anche ad alcune iniziative a Genova. Ed è chiaro che, ritorniamo, e quindi ci sarebbero tantissime cose da dire, però rimaniamo con il nostro dolore per la morte di un compagno che ancora aspetta giustizia, così come tanti compagni morti, tante famiglie di compagni morti aspettano ancora giustizia, compresa anche da Pinelli a tanti altri compagni rimasti sul selciato perché uccisi da polizia e carabinieri. Allora ritorniamo al titolo, Ci rimane da Cuba. che è strettamente collegata al ritorno, e noi anche su questo abbiamo fatto molto approfondimento, al ritorno dell'aquila imperiale di Biden nel mondo. L'America è tornata e ce ne stiamo accorgendo. E vediamo che in neanche un anno, dall'America Latina all'area geopolitica medio orientale, la politica imperialista colonialista Yankee, come detto prima, guidata e gestita dal neopresidente Biden, sta scandendo e imprimendo una forte accelerazione sui tempi del riordino mondiale in funzione anticinese, antirussa, a cui si aggiunge la perenne opera di porre definitivamente nel dimenticatoio della storia il comunismo, il socialismo, e di mettere la parola fine a quelle comunità che si riferiscono culturalmente ad una pratica collettivista. È chiaro che oggi Cuba, ci stanno, diciamo, ma si parla di manifestazioni anticubane, antigovernative in Cuba, perché per la povertà, la precarietà. E, però prima di arrivare a quel che sta succedendo, è bene definire alcune situazioni, perché noi diciamoci le maniere Cuba. E ripariamo cosa è stata sempre la strategia imperialista americana a partire dall'America Latina e non solo, anche in Europa. La politica imperialista e colonialista Yankee, ricordiamo storicamente, per affermarsi e porre la propria egemonia, ha sempre posto in essere le tre opzioni: il conflitto bellico diretto, la preparazione e sostegno politico, economico e militare di vari colpi di Stato, è chiaro, i vari colpi, no? Dalla Grecia, il Cile, l'Argentina, così come anche i vari tentativi di colpi di Stato in Italia, e se non dovrebbero ricordare quelle i miopi del Partito Comunista. E diciamo l'embargo, di cui appunto il più eclatante è quello posto a Cuba da 60 anni. E vediamo che il Pacifico Biden, così si presentava Biden per essere eletto a livello per essere eletto come presidente degli Stati Uniti d'America, cosa sta facendo? Si sta ben guardando dal non controvertire, sempre in funzione anticomunista, le strategie e le politiche Yankee nella scena internazionale, compresa anche quella del suo predecessore Trump, le cui ramificazioni ancora pesano in aree geopolitiche come l'America Latina. Vediamo che appunto l'America Latina, l'intera America Latina, specie per la pandemia, è di fronte a scenari che potrebbero mettere in discussione le politiche neoliberiste e neocolonialiste, in quanto il Covid, come in tutto il mondo, per il Covid sono state messe a nudo tutte le nefandezze e le delle politiche neoliberiste. E in America Latina, appunto, bene sempre ricordare un cenno storico, il presidente del Brasile, Bolsonaro, sempre nell'area geopolitica dell'America Latina, ha avuto un ruolo politico determinante per aver riportato indietro le lancette della democrazia e dell'emancipazione di un continente che, ricordiamo, all'inizio del XXI secolo era diventato un riferimento, un esempio di modelli economici e relazionali emancipativi, attraverso anche il protagonismo delle comunità, che dimostravano che il nuovo mondo, sganciato dai dettami neoliberisti, era possibile. Con l'elezione di Bolsonaro nel 2018 in Brasile, questa elezione segnò una nuova sconfitta per i partiti e i leader protagonisti di quella che era considerata la Marea Rosa, che segnò una nuova sconfitta per partiti di sinistra, alle progressiste, e si consegnò questa sconfitta, di fatto consegnò i destini di una buona parte degli stati latini, degli stati latinos, al peggio della storia politica latina. Quindi fu consegnata alla destra, ai nostalgici, a familiari, parenti, vecchie nomenclature delle vecchie dittature siciliane e argentine, e le grandi famiglie, espressione delle varie lobby multinazionali, che erano, come devo dire, espressioni delle vecchie dittature, che poi alla fine, nonostante che tutte queste grandi famiglie sono coinvolti e sono state sono coinvolte in scandali, corruzione e schifezze varie. Però che sta succedendo? Perché un richiamo al Brasile? Perché è importante, perché ricordiamo che in Brasile fra pochi mesi ci saranno le elezioni, però stanno succedendo un po' di cose strane. Dal Venezuela, Nicaragua e a Cuba stanno succedendo, ci sono strani avvenimenti, movimenti dove appaiono così palese le incidenze estere, in primis degli Stati Uniti d'America, che soffiano sul fuoco delle difficoltà in cui versano le comunità latine, le principali comunità latine, specialmente a causa dell'embargo posto militarmente dagli USA nelle tre nazioni che abbiamo detto prima, e diciamo è così palese che sempre gli USA sostengono e finanziano mobilitazioni per mettere in serie difficoltà i vari governi come quello di Cuba, e con palesi minacce golpiste, perché quando e gli Stati Uniti d'America in questi giorni si stanno facendo paladini delle democrazie, e quando uno dice noi sosterremo le spinte democratiche dei movimenti a Cuba, sono non più velate minacce, ma sono chiare minacce di sovvertire, diciamo, il governo cubano, non solo venezuelano, diciamo Nicaragua, anche se diciamo magari più sul Nicaragua vi sono un po' di riflessioni, però bisogna essere sempre laici nelle nostre riflessioni. E il problema e il timore degli Yankee è che Cuba ritorna ad essere il principale riferimento delle comunità latinos che aspirano alla propria determinazione, e tutto ciò con tutte le difficoltà economiche, di embargo e via dicendo, nonostante che a Cuba sono 60 anni che ci sta l'embargo USA. Nonostante che l'embargo stia creando tantissimi problemi, vediamo che a Cuba ancora resistono forme relazionali, economiche e culturali che, diciamo, ancora si oppongono al neoliberismo. Così anche ricordiamo, e qua veniamo alle vicende su cui stanno soffiando tutto l'Occidente contro il governo cubano, ricordiamo la questione sanitaria cubana, che è, diciamo, è una delle più efficienti, un sistema sanitario pubblico, gratuito. Ricordiamo che a Cuba quanti viaggi della speranza provengono da tutto il mondo, compresa Europa, compresa gli Stati Uniti d'America, comprese anche l'Italia. E diciamo che nonostante che a Cuba ci sia la produzione di vari vaccini rispetto al Covid, alla pandemia, esistono delle difficoltà concrete, come il problema dei rifornimenti di siringhe, che creano delle criticità. E ricordiamo che Cuba, se diciamo non avesse queste problematiche, sarebbe in grado di offrire a tutta l'intero popolo dell'America Latina tutta una serie di aiuti concreti per levare da mezzo questa pandemia. Però il tutto sta avvenendo in assenza di questo attacco al governo cubano, sta avvenendo e nessun, senza alcun sostegno politico dell'Occidente, in primis dell'Europa politica, e non ne parliamo della nazione italiota, sempre più servile agli Stati Uniti d'America, specie dopo, ricordiamo sempre, il golpe alla matriciana di quel di Renzi. E vediamo che diciamo, l'intero apparato militare Yankee, quindi con annessi servizi di intelligence, perché stanno soffiando sul fuoco, ci tendono sempre, perché ricordiamo che in America Latina, l'intero apparato militare, come dicevo, con i servizi intelligence, è molto preoccupato per i vari conflitti sociali e le rivolte che nel biennio 2019-2020 e specie nel primo semestre 2021 l'America Latina, l'intera America Latina è stata pervasa da rivolte, proteste contro la precarietà, perché l'80% della popolazione latina versa con gravi condizioni di precarietà e di povertà. E che poi, diciamo, anche a seguito dell'esito elettorale in Brasile, dove tra l'altro risulta quasi certa la sconfitta di Bolsonaro, potrebbe determinarsi un effetto a catena per il resto delle nazioni latine. Ecco, diciamo perché è così palese che questa campagna mediatica contro Cuba, poi chi parlano proprio con i difensori delle democrazie, gli Stati Uniti d'America, non ne parliamo proprio. È chiaro che per dire Cuba, proprio dopo 60 anni, ha delle problematiche, non avendo un sostegno internazionale che levi l'embargo. E ricordiamo che appunto dopo 60 anni di embargo a Cuba da parte degli Stati Uniti d'America, il sogno imperialista Yang è sempre quello di porre fine alla rivoluzione cubana. E anche con l'utilizzo, come sta succedendo in questi giorni, come nel 90, del bombardamento mediatico di cui alcuni media americani, come il Miami Herald, il giornale della Florida, si sta proprio distinguendo per l'opera di disinformazione, con un continuo monitoraggio, diffusione di video che mostrano manifestanti che gridano abbassa la dittatura, abbassa il comunismo. E quando parliamo di cose strane, ecco, ci sta un altro capitolo, dall'America Latina all'area medio orientale, che dove abbiamo altri, cioè dove ai disastri, come per l'America Latina, disastri umanitari e le continue destabilizzazioni geopolitiche derivanti dalla guerra del Golfo del 91, che diciamo tra l'altro sono testimoniate dalle macerie, gli esodi apocalittici di milioni di siriani, curdi, africani, pakistani, il nuovo riordine mondiale per definire l'egemonia USA, sempre in funzione anticinese, antirussa, e specie in questa area geopolitica in funzione anti-Iran, si assistono a grandi movimenti strategici, militari e finanziari. Quindi è come diciamo per l'America Latina, nell'area medio orientale, l'attuale amministrazione Biden risulta essere in continuità con le politiche del suo predecessore Trump. Alla base e per quali motivi? Per l'accaparramento delle storiche fonti energetiche, quali il gas e il petrolio, poi alla faccia delle politiche green dell'Occidente ambientalista. Il controllo politico-militare delle aree dove tali fonti dovrebbero circolare, i gasdotti. È chiaro che questa, l'area geopolitica medio orientale risulta essere perenne terreno di scontro e confronto muscolare militare, che diciamo non fa altro, tranne solo Papa Francesco ha detto dalla terza guerra mondiale che è in atto, sta a dimostrare che si è in presenza di un conflitto mondiale. I continui scontri contro la Cina, contro la Russia, contro l'Iran e così per non parlare dell'area pacifica, e dove spesso avvengono confronti sia aerei che marina, a livello di marina militare. E abbiamo un conflitto mondiale che, seppur mai dichiarato di fatto, è in continuo essere. E il problema, siamo timorosi, non solo è che è in essere, in atto, ma gli scenari che si prospettano, quali saranno, non certo, che ci faranno dormire sogni tranquilli. È chiaro che poi in tutto questo contesto abbiamo le superpotenze, in questo caso la superpotenza degli Stati Uniti d'America, utilizza la spada di Damocle che storicamente, ricordiamo, posta sulla testa dei popoli, quindi l'uso del nucleare, che sta sempre, posta come una spada di Damocle sulle nostre teste, è rappresentato proprio più volte minacciato. È minacciato da Israele, che poi è il cane da guardia degli interessi imperialisti nel Medio Oriente. E Israele continua a minacciare l'uso nucleare contro l'Iran, così come il bombardamento a siti nucleari. È chiaro che le prove muscolari imperialiste americane della NATO, ecco, specialmente sulla questione energetica, così come a cui è unita anche una ridefinizione dei vari confini, sempre in funzione anticinese, russo, cioè ampliamento delle zone rosse, possiamo dire. Ecco, ora siamo in tema di Genova, anticinese, russo, e vediamo che l'America con Biden sta avendo un'ulteriore influenza e incidenza nei vari scacchieri internazionali, compreso il Mediterraneo, che diciamo con Biden si sta distinguendo per il suo totale assoggettamento agli Stati Uniti d'America e alla NATO, che ecco, rende più evidente lo slogan di Biden: l'America è ritornata. È chiaro che ecco, noi abbiamo parlato di Israele, e quindi del servilismo europeo, ecco, se poi aggiungiamo il ruolo della Turchia, che è un altro cane da guardia della NATO nel bacino del Mediterraneo e anche di altre aree geopolitiche nel Medio Oriente, vediamo chi sono quelle comunità che vengono sacrificate sull'altare del capitalismo e del neoliberismo, il popolo palestinese e le comunità curde. E ora ritorniamo anche a quello che dicevamo prima, quando parlavamo, stanno avvenendo strani movimenti, strani cioè stanno accadendo strane situazioni, proprio. E questo, ecco, la CIA docet storicamente, no? Se noi torniamo indietro con la memoria, allora ricordiamo come fu preparato il golpe in Cile, in Argentina, così come il golpe, la dittatura, il sostegno e la formazione, la preparazione militare repressiva nella Grecia dei colonnelli, e tante cose strane stanno succedendo, caso strano, ai confini di Cuba, di Iran, dell'Iran. Ecco perché ci fanno temere che sia nell'America Latina che nell'area medio orientale qualcosa si sta preparando, qualcosa di brutto insomma si sta preparando, sperando che siamo smentiti di fatto. Ecco, vedi, quando parliamo di cose strane, non sembra strano l'assassinio del presidente di Haiti, che sta ai confini con Cuba, Jovenel Moïse, ucciso da un commando di 26 persone, di cui 18 sono colombiani. Questo commando, e non solo, sono stati reclutati da un certo Christian Emmanuel Sanon, che è un medico osteopata che vive negli Stati Uniti d'America, in Florida. Questo qua è noto per il suo plurifallimento finanziario, senza un quattrino. Questo qua, senza soldi, super fallito, iper fallito finanziariamente, ecco, ma dove ha preso i soldi per reclutare questo comando che doveva destituire il presidente di Haiti? Come faceva questo individuo pregiudicato, proprio perché in America i reati finanziari vengono perseguiti, viaggiava con jet private, faceva la spola tra la Florida e Haiti. Cioè, qualcuno l'avrà finanziato. Ricordiamoci come abbiamo, l'esempio che abbiamo fatto prima su come si preparano i colpi di Stato. I colpi di Stato partono da lontano. E diciamo la vicenda di Cuba, la paura, quindi la paura che in Brasile, che poi della sinistra, che poi potrebbe determinare diciamo un effetto trascinamento nei vari altri stati latinos, per cui Cuba potrebbe ritornare ad essere un punto di riferimento, quindi tesa ad un'autonomia, a un'autodeterminazione proprio dell'intera regione America Latina. E questo è per l'America, è per Cuba, per ciò che noi pensiamo dietro quelle proteste che stanno succedendo a Cuba. E ritorniamo all'area medio orientale. E non ci sembra strano come il ritiro fulmineo dall'Afghanistan dopo l'accordo di Trump fatto con i principali capotribù talebani? Le truppe USA e NATO hanno fatto i patti, quindi Trump, espressione delle truppe della grande armata Yankee e della NATO, ha fatto gli accordi con i capo tribù dei talebani, che ricordiamo stavano dietro l'11 settembre. Per tale motivo è cessata l'invasione della NATO e quindi la presenza militare armata in Afghanistan, quindi compresa anche l'Italia. Cioè questi qua hanno lasciato ai talebani armamenti sofisticati, basi logistiche e quindi anche sicuramente finanziamenti in un'area geopolitica. Ricordiamo che i talebani afghani hanno molta influenza su Pakistan e ricordiamo Afghanistan, Pakistan, l'Afghanistan e il Pakistan con chi confinano, caso strano, l'Iran e la Cina. E come devo dire, sarebbe, sempre a proposito di zone rosse, far fare come in America Latina gli squadroni della morte, modello Contras, quando prima del golpe di Stato in Nicaragua. cloniamo. Quindi lasciare il lavoro sporco per non far intervenire direttamente gli USA, tranne i capobastoni dell'Israele, che diciamo nei loro continui violazioni di spazi aerei, non solo, sono sempre minacciose nei riguardi dell'Iran. Quindi loro avrebbero, in una parte dell'area medio oltre ad Israele, anche i talebani, che potrebbero svolgere un lavoro sporco in funzione anti-Iran e anti-Cina. Quando si parla di lavoro sporco si parla di, da un punto di vista, di intromissioni militari da parte di questi qua, insomma. Ecco perché noi diciamo giù le mani da Cuba, giù le mani dall'America Latina, giù le mani da quelle nazioni che tendono all'autodeterminazione e che individuano nel neoliberismo, nella globalizzazione, nell'impero, nel pensiero unico, i mali di cui il pianeta Terra, la distruzione dell'ambiente, la distruzione della natura, della foresta amazzonica, la pressione dell'emissione CO2 che sta determinando sconvolgimenti climatici, il responsabile è il capitalismo e l'imperialismo. Ecco perché, a 20 anni dal G8 di Genova, di queste stranezze ne abbiamo denunciate tanto in quei giorni. Ed è chiaro, seppur con una magra consolazione, avevamo ragione allora, avevamo ragione oggi. Ciao compagni e compagni, sempre con Carlo nei nostri cuori. Ciao.